Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante del Traghettatore, buongiorno. Ci avviciniamo alle vacanze di Natale e quindi si accentuano le iniziative di solidarietà. Ve ne segnaliamo una che si chiude proprio domani a Palazzo Valentini a Roma. È una mostra organizzata dal network di fotografi no profit Shoot for Change. L'esposizione si chiama infatti Storie for Change ed è stata già realizzata sia a Reggio Emilia che a New York. Ovviamente l'incasso è in beneficenza. Vi segnaliamo un'iniziativa che è molto originale, ma che secondo noi tocca proprio le corde poi di una delle problematiche più diffuse che dobbiamo affrontare e risolvere, quella della diffusione della conoscenza in tanti campi, ma anche in quelli della sostenibilità. Con noi c'è il professor Antonio Scipioni, che è responsabile scientifico del Centro Studi Qualità e Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. Ce l'ho fatto pronunciare a tutto. Professore, buongiorno. Buongiorno. Ecco, che cosa comunica il centro studi di cui è responsabile? Che cosa comunica e a chi? Allora, noi come centro studi di qualità ambiente abbiamo un'attività di ricerca da diverso tempo rivolta alle imprese, perché noi riteniamo che l'ambiente, oltre ad avere naturalmente in sé un grande valore etico, è una grande opportunità per garantire la competitività alle imprese stesse. In questo senso noi siamo coinvolti nelle attività di ricerca nel campo della gestione ambientale o della qualità ambientale dei prodotti. Bene, la vostra idea quindi, attraverso questa relazione con l'agenzia, di comunicare alla business community sostanzialmente queste ricerche e questi risultati. Ci faccio un esempio di cosa stiamo parlando. Allora, penso che noi appunto su una ricerca periodica che facciamo insieme ad Accredi abbiamo visto come le imprese che si approcciano verso le tematiche ambientali difficilmente comprendono il valore proprio strategico, diciamo, di questo approccio. Abbiamo pensato che la nostra attività, che riguarda appunto la certificazione ambientale, i sistemi di certificazione ambientale di prodotto, come possono essere il contenuto in CO2 equivalente o in acqua virtuale, la water footprint, la carbon footprint o anche i rumori, riteniamo che dal punto di vista di quello che è il concetto di sviluppo sostenibile bisogna, al di là dei principi che naturalmente tutti noi condividiamo, questi principi devono poi essere realizzati nel quotidiano agire. In questo senso noi ci proponiamo di intervenire presso le aziende per individuare le aree di miglioramento e quindi poi realizzare un sistema competitivo più adeguato. Avete individuato anche i mezzi che utilizzerete per questa comunicazione? Immaginiamo che internet sarà fra i primi. Sì, certamente internet è molto importante. Noi già vediamo che nei nostri siti i giovani naturalmente utilizzano prevalentemente questo metodo, anche nelle nostre attività, diciamo, di formazione post laurea vediamo che la prevalenza degli iscritti avviene attraverso il collocamento via internet. In questo senso la sinergia con un'agenzia di comunicazione è molto importante, proprio perché naturalmente noi, essendo particolarmente coinvolti nella ricerca, non in termini di comunicazione evidentemente non siamo altrettanto esperti. Giusto, corretto, complimenti, un'iniziativa intelligente, speriamo che venga seguito anche da altri atenei. Grazie al professor Scipioni. Chiudiamo segnalandovi un'asta benefica ovviamente, che si tiene su eBay ed è un'iniziativa di Amnesty International, particolarmente significativa anche nei contenuti dell'asta. Non ci sono oggetti, ma partecipazione a concerti con il Tiba di Franco Battiato, possibilità di cucinare con Carlo Cracco, di conoscere Luca Argentero e Ilary Blasi per chi avesse questa curiosità, o essere ritratti accanto a Diabolik in una tavola originale. I risultati di quest'asta, di questi proventi di quest'asta, sono destinati alle donne in Medio Oriente e all'Africa del Nord per le battaglie sui loro diritti. Grazie di averci seguito, vi ricordo la pagina Facebook Ferribot-Radio24, in redazione Anita Panizza, in regia Gianmarco Ferronato.